subito i capelli del cane. Poi io me li faccio con la macchinetta, quindi figurati. Che è diventato? E ho detto che comprato la macchinetta per tosare, è uguale alla fine, non che sia diversa. Se voi ti faccio i capelli, l'ho pagata 50 euro, però l'ho pagata 10 euro. Adesso chiedo a qualche pastore se può andare, a fargli, come si chiama, i capelli alle pecore. Questo è fare a caso un'altra, fai. Che ragazza? Ti fai pagare, quindi con la macchinetta bastano le tagliare il coso, la pelle e siamo a posto. Quanto ci vuole a prendere la patente radioamatoriale adesso? Non so, devi fare il corso, ma se studi, poi penso che devi fare il corso, non so quanto ci vuole. Poi per per pagare la concessione della ricetta, diciamo sono 6 euro solo mi all'anno. Sì, vabbè, prima bisogna avere la carta in mano, poi a pagare c'è sempre tempo. È un bel da studiare, c'è, no? No, sono le basi di elettronica più che altro, capito? Le basi di elettronica e... cosa c'è l'altro? Devi studiarti altre cassate varie, ma non è che su questo granché, capito? Non è che devi andare per dire all'industriale, capito? Basta la base solo di elettronica, dopodiché a parte le normative, sei a posto. Vabbè, non è proprio così, da un po' devi studiare, da, devi sapere. Mi sta salendo il pallino, capito? Ti fa segnare un po' di elettronica, le basi di elettronica, la legge di Ohm, la legge di Kirchhoff, tutti i transistor, i condensatori, le resistenze in serie, in parallelo, come fare i calcoli, eccetera, eccetera, e come costruire le antenne. E poi qualche altra cosa ci sarà, senz'altro, ma non è che questa granché di elettronica che studi tu, non è elettronica industriale, hai capito? Basta che studiare il test, fare le misurazioni, se c'hai una faringite ti puoi costruire per dire una faringite per i fatti tuoi, però ci vuole sempre la strumentazione, non è che lo fai così nelle regolazioni, no? Ci vuole il misurato in campo, ci vuole l'oscilloscopio e devi usare quella roba lì. Difficile di fare! Cos'è, Marì? Ma sono Marino, sono Torre, Torre Squalo. E quando vai lì fai il quiz, e poi se sei bravoso è buono, se no lo devi ripetere. Ho scoperto qua a casa, hai fatto. Vabbè, certo, se sei bocciato devi ripetere per forza. Ma una volta che decido mi metto sotto e studio, cioè vado lì per uscire promosso, non per uscire bocciato. Sono da fare l'oburo, pensa un poco, a 70 anni. Bisogna conoscere le leggi, roba di internet devi sapere, non è gai su conto. Ascolta lì, quando siamo andati a prenderci la patente dalla macchina abbiamo studiato, no? E non penso che, anzi per la radio credo che ti appassioni un po' di più perché è una cosa che ti piace. Quindi chi ha voglia di prendersela basta studiare, se la prende, non è quello il problema. Ti attacchi il culo alla sedia, al portatile del radio la sera, ti prendi il libro e studi. Sì. A me non me ne danno. Anche se studio. Sì, vabbè, quello è un altro discorso, se a te non te la danno. Bisogna studiare, attaccare il culo alla sedia, studiare. Uno quando deve ottenere qualcosa studia, anche perché la stai pagando, quindi devi studiare. Appa e appa, poi vediamo. Bravo. Così è detto giusto, Clap? Cioè, se una cosa uno la vuole la deve ottenere. Le cose si ottengono studiando, non certo te la regalano come hanno fatto qualcuno. Perché sono molti, qualche radioamatore che se l'ha comprata, attenzione, non è che gliel'ha studiato, gli hanno regalata. Poi, la buonanima di Torellai, quasi 70 anni, eppure si è preso la patente. Poi se vuoi ti cito a Gavino Passero per dirtelo, anche Gavino l'ha presa da grande. Tanta gente, quando una cosa uno la vuole, anche se c'ha 70 anni, non è rincoglionito, studia e se la prende. Comunque Massimilia è più dura di quando l'abbiamo presa noi, noi radioamatori vecchi, insomma, anziani di patente come me, che l'ho presa nel 92. Non è più come prima, la regione Natalino. A parte qui si deve sapere anche un bel di cosa su internet, deve essere preparato anche a livello di internet, non ho capito a cosa serve. Ti ripeto, Cla, quando uno vuole ottenere, si bosa, i libri ci sono, studi fino a uscire dalle orecchie. Quando uno studia, Cla, che sa, poi si documenta, allora, tramite amici e cose, cosa possono chiedere, cosa non possono chiedere, ma una volta che studi un po' ti dà una bella infarinata di tutto, Cla. Non tutti sono nati imparati, però quando uno studia, secondo me, non c'è Cristo. Per ottenere devi studiare, tutto qua. Io la preparazione che avevamo fatto proprio con Tole era un'ora al giorno. Un'ora al giorno, invece di stare in radio, la sera, mi mettevo, leggevo, ripetevo, ma era, non era quiz, capito? Non era domanda e risposta, era proprio un vero esame di elettronica. Durava 5 ore, come un esame di Stato, 5 ore, dalle 8 del mattino fino a mezzogiorno, o 4 ore, quanto era? 8, 9, 10, 11, 2, 4 ore, capito? Se finivi prima, che eri sicuro, perché dovevi consegnare sia la brutta coppia, che loro si accorgevano, perché dovevi fare il compito in brutta coppia, e poi dovevi ricopiarlo in bella, capito? Dovevi allegare alla coppia bella, pulita, ordinata, senza errori, naturalmente senza errori, senza correzioni, dovevi consegnare anche la brutta coppia, in busta chiusa, col tuo nome e cognome, capito? Invece adesso è diverso comunque, sempre studiare bisogna, però come hai detto tu, se una cosa uno la vuole, deve studiare, è come la patente e la macchina, vuoi la patente e la macchina? Devi sapere quello che stai facendo e poi devi fare la guida. Quindi, va bene, ok, comunque è così. Chi vuole le cose deve ottenerle, non ti regalano niente, però a qualcuno è un regalato, vabbè. Non forse chi era donto non aveva mai studiato. Sì, vabbè, è chiaro, quello è un altro discorso ancora. Capito? Vabbè, comunque, vedremo, dai, vedremo cosa fare, perché la verità mi sto un po' scocciando di caso in PDMD. No, non fate PDMD, io l'ho fatto per quello, io l'ho fatto per la retenzione soprattutto, ma anche per l'uso, è un'altra cosa, non ti va di stare qua, io adesso, non è che ho sentito voi, sono rientrato, ma poc'anzi c'era un po' di maretta, sono sceso da Cacce, cioè, mi sono fatto un parentesi, poi sono anche, non sentivo nessuno, ho detto, ah, infatti avevo abbassato il volume delle V, capito, puoi fare tante cose, Massimiliano, ne abbiamo già parlato, e mi sembra che io ti avevo anche già dato i libri, per iniziare, per prepararti, per fare con calma, con tranquillità, serenità, capito, e tu invece ci hai rinunciato, perciò se vuoi ricominciare, non è mai troppo tardi. Sì, registrato il break. È così. Sì, okay. È così. Avanti il break. Va bene. Ascolta, Ricca, quando posso venire a farmi un giro a cavallo? Rick, chiave che è quello è l'occhio, poi se lo mangia il cavallo. Ecco, Massimiliano vuole un'asella. Ma mi regolo i tuoi cavalli, sì. Ma si vede a fare i giri, non per fare bistecche. Eia, eia, eia, e beh, ciao Robè. Sì, no, no, no, io sono molto appassionato del cavallo, ci ho lavorato un po' in mezzo ai cavalli, quindi un po' già li conosco là, però non c'avevo la pancia di adesso ed era qualche 30 anni fa. Massimiliano, la sella la faccio io. Va bene, e le faffe? Che la pancia c'è, Massimiliano? Cosa? La pancia c'è. Sì, va bene, la pancia è un po' di addominali, va. La addominali? Gappa già. Come messi allora? Là? Vabbè, dopo il po', sta salute, là. Tutta salute, uno mangia e bizzi, dove la cosa? Online radio. Sono pesato oggi, Massimiliano, 10 tonde e tonde, erano 8 e sono già 10. No, io forse 10 li ho presi, no? E vabbè, ma non me ne ha fatti nulla, devo essere sincero. Non mi interessa, la pancetta ce l'ho, me la tengo, cosa me ne ha fatti. Quando sarà il momento togliamo anche quella, se ne la bughiamo, se no già rimane. Vai Robè. E io sono entrato a gamba tesa, come dice qualcuno. Ciao Massimiliano, ciao Luca, ciao Claudio, ho sentito Riccardino, eravamo un po' spostati, sta uscendo bene, una bella radio, mi piace, dai, come l'ascoltate voi? E gli ho dato prima di te il controllo io, gli ho detto che va benissimo alla grande, non toccare niente, se me lo porta in officina una mattina le faccio anche la modifica subito, mi e glielo vedo immediatamente. Prepari il salvatore con lo stagno, le faccio il ponte, le tolgo tutta quella roba che c'è vicino alla capsula e vedi come esce. Sì, infatti gli ho detto, già è una cosa abbastanza veloce, dai, ok, io l'ascolto benissimo, c'ha una voce chiara, con i toni al massimo fa schifo, va solo bene con i toni chiusi, come le avevate regolate a voi va più che bene. Le ho regolate io, le ho fatti chiudere io i toni, perché sennò non va bene, così com'è, toni chiusi e microfono a manetta. Perché cosa stai usando? Un più 5? Sì, sì. Ma dipende dagli studi, in FM, cosa? E propagazione sporca, c'è. Sì, mi ha detto ieri, gli ho detto ieri di comprarsi un microfono MB5, è andato a fusare e se l'ha comprato, e ha fatto bene. Almeno si sente meglio del radio. Ma Ricca, facci sentire questo MB5. Un attimo, forse c'è Eugenio. Beh, oggi. Ciao oggi. Aspetta che sentiamo Riccardino in diretta. Avanti Riccardo. Ok, mi faccio sognare con il microfono. Comunque, ciao Eugenio, mi senti? Ho la notizia, grande Riccardino. Senti che radio, senti. Io e mamma. Quello Riccardo, quando glielo dici a Sergio, quando vuoi, magari un sabato mattina, anche sabato mattina, che lui mi era impegnato come hai fatto l'altra volta, ci vediamo da Roberto, ti faccio la modifica veloce e te lo riprendi, capito? Esce molto meglio. Ma non mi hai ancora risposto, però quando possiamo venire a fare un giro a cavallo in Graticola? Va bene, va bene, ma molti ne hai di questi cavalli? Due. Ma sono maschio o femmina? Cosa sono? Che cavalli sono? Anglo-arabo? Puro sangue, cos'è? Mezzo sangue, che cavallo è? Americano. Cos'è? Americano, cavallo americano. Ariccione, cos'è? Sono cavalli americani. Ehi, ho capito. Uno sembra quello che ha più piccati lunghi, è a fuoco. Ma sono belli, nata la graviglia. Piccato, dai, faccio la graviglia, pronta? Sì, l'hanno salvato a matato io che ti fa dal latte a mangiarlo. Al massimo, e poi c'è stena la miuglia, sottile sottile, a burro. No, un cosciotto che si mangia in mendezzi, no? La cuccia di cavallo, in 10 mangiamo. Ma tu non mangi carne di cavallo, Riccardino? No, non le mangio, non le mangerò mai. E fai bene, fai bene. La valina, non è un carne di cavallo, non è un carne di cavallo, non è un carne di cavallo. Ci ho dato un mese e mese senza mangiarne, ma mese e mese, non ne voglio, ma non ne voglio, non ne voglio. Cazzo, poi c'è un carne di cavallo, carne di cavallo, non ne voglio. Poi l'ho mangiata, boh, dopo 4, 5, 6 mesi mi batte. Questa cosa mi ricorda un amico che per un mese intero, dico un mese intero, 30 giorni, e sottolineo 30 giorni, ho mangiato tonno. In vita mia non avevo mai mangiato tanto tonno come quello, cazzo. Il tonno è buono, me l'ho mangiato lo stesso, buonissimo. Le cozze arrosto, ma cozze, mi ho mangiato, non finivano più queste cozze qua. Ascolta, un amico, non faccio nomi, Massimiliano Bulldozer, a me mi ha regalato 20 kg di tonno. Lo sai cosa vuol dire 20 kg di tonno? Ma non tonno in scatola, tonno, tonno, metà di tonno, che era 50 kg, mi ha regalato 20 kg. Quindi io ne ho mangiato per un mese, in tutte le maniere, la pizzaiola, bollito, con l'olio, come, in tutti i maniere. Nel palazzo mio, l'animania tutti, quindi poco mesi ci siamo stati, tutto il mio palazzo mangiando tonno. E poi si sono uscite le pinne. No, ma c'è poi Gitto Maria, non ne pigliava più che ricavato, ma comprato la sella. Ah, Massimiliano. Ah, beh, tempi erano quelli, cavolo. Tu, l'ultima volta che sono venuto a casa tua, ho detto, non tocca più con i mali, tocca con i beri, io ho toccato con i beri. Picchies, allora se li beri. Mamma mia, come sto. No, quello mi è uscito meglio, l'avevo messo anche in barattolo, non ci l'avevo bollito, perché un amico che lavora lì a Olbia, dove era, e allora si chiamava la Palmera, l'ho telefonato, ho detto come farlo, e quello mi è uscito molto buono, ma la pizzaiola, al forno, insomma in tutte le altre maniere, nello stufo di mangiare, nello stufo, vabbè, avanti di doppio rumore, riprendi. Io ho mangiato avanti, però non da buffarmi, dai, ne avevo 6 o 7 fette, belle spesse, ma ero da un po' che non ne mangiavo, là. No, già è buono. Come l'hai fatto la pizzaiola? No, l'ho fatto con aglio, prezzemolo, vino, pomodorini, vino bianco e poi basta, e un po' di limone sopra. Quello l'ho mangiato quasi tutti i giorni così. Ma era un bel grande, ce n'era un bel, ne ho fatto delle fette, tagliavo delle fette e lo portavo no, al mio palazzo intero, quelli che insomma, il mio vicino, quello di sopra, quello di sotto. E mi aveva fatto ci ho fatto un mese mangiando d'uno. Per carità. Quanto era grande quel tonno, Massimiliano? Era quasi 60 kg. Fatti il conto, 20 li viravo io e 40 hai fatto le porzioni. Vabbè. No, la figlia di mio fratello ce l'ha al cavallo di Salvatore, lì Gianni, dove c'è il maneggio oggi, lo sai, Gianni Falchi, Gianni. Gianni di Perù mi già lo conosce, figlio di del fratello di mamma, c'era lì, il cavallo, il mio fratello Antonello. Molto bella, molto bella, non mi ricordo, no, Luna si chiama, no, è femmina. Una bella femminuccia, bella. Tua cugina era la mia ex collega. Tua cugina? Ah, la figlia di Salvatore, sì, già lo so. Antonella. Sì, Antonella, già lo so, che lavorava lì con te. Gaffa, tanti anni, un bel di anni siamo stati lavorando insieme. Vabbè, poi aveva messo certo il conizio e se n'era andato. E che non bea con chissà. Vabbè. Ma giusto, già lo so provare a fare bene la dirigente. Vabbè, adesso vi va. Antonella se l'ha presa, infatti noi come solidarietà avevamo portato tanti dolci, coso, e a Natale le abbiamo mandato un cesto, perché non eravamo d'accordo su quello che era successo. Sì, ma quando è così non ci puoi fare niente, se la conosco io Antonella, un carattere molto... come si dice, si offende per tante cose, capito? Vabbè, comunque. Avanti, la ruota, gira la ruota, riprendi Roberto e fai girare, vai. Comunque, domani è passato tutto a posto. Ma con che radio stai uscendo qua? Con 430 adesso. Infatti, bella radio. Ok, Rosa Pesciano, ma nessuno ha fatto i complimenti a Riccardino, possibile? Ci teneva tanto di questo microfono e tutti, come che non sia successo niente. Io lo ascolto benissimo, forte, chiaro. L'avete sentito gli altri? Ma a te chi te l'ha detto che non abbiamo fatto i complimenti? Io glielo ho detto anche stasera. Riccardo, dille cosa ti ha detto Claudio. Gliel'ho fatto comprare io, ho detto vai a fusare il compact un MB più 5, almeno la modulazione è più forte. L'ha comprato, stamattina l'abbiamo regolato, gli ho fatto togliere i toni, gli ho detto che sta uscendo una bomba e tu mi dici che non gli ho detto niente. No, parlo dei nuovi entrati, io non lo so di quelli che c'erano adesso. Di te lo so perché me l'ha detto, perché vi siete sentiti, però di questi altri tipo Massimiliano, tipo Gianni Eugenio non sapevo l'avessero sentito. Oh, un attimino, scusate un attimo, che ce n'è uno nuovo di Porto Torres, non vuole parlare perché è, come si dice, è gay. E dice lo prendiamo in giro. Attento Emiliano! Niente, non vuole entrare, vabbè, entrerà. Riprendi Roberto. Ma Emiliano ha posto due reso. Comunque io il complimento gliel'ho fatto. Riccardo, cosa ti ho detto appena sei entrato? Vabbè, tu, non lo so qui. Beh, stamattina anche io, io e Claudio, dai, abbiamo fatto i complimenti. Poi Gianni stasera, tutti quanti gli abbiamo fatto i complimenti, Roberto, tutti. Alla fine ci viene il dubbio che non li hai fatti tu, perché non c'eri. Io sto scherzando, no, diciamo, perché ha migliorato tantissimo, adesso finalmente si fa ascoltare, poi è arrivata l'antenna, gli arriva, cioè gli sta per arrivare l'antenna, per cui avrò anche la possibilità di aumentare il segnale. Bella radio finalmente, piano piano sta facendo una bella stazione. L'unica cosa, Riccardi, col microfono, non lo so per il fatto di quel difetto. Registrato. Mi ha venduto, hai visto qua il microfono? Quale microfono? Questo qua, io non so quanto costa adesso lo ZG, il prezzo su di mercato, però gliel'ha dato già usato con una bolla, dove c'è la parte in alluminio c'è una bolla, come che si è scaldato. E c'è anche Antonello che gliel'ha dato a metà prezzo, ed è fatto lo sconto, ma io non ho capito, cazzo uno ordina la cosa in un negozio e la fa arrivare così, a me io non ne avrei comprato. Assolutamente, no, non mi interessa, il mio è nuovo, c'è anche quello di Massimiliano, nuovissimo, con l'attacco Kenwood, che è il suo, naturalmente non è il mio, però sono nuovi. Tu non mi puoi dare un microfono da negozio con la scritta sollevata, cioè gonfiata, ma mobili e tiromagni. 70 euro su internet costa. Fatto pagare, ricordi quel microfono? Beh, restituiscilo veloce, grazie, 70 euro, allucinante. Io mette così, Massimiliano. Cosa? Già. Cosa già? Anche su internet l'ho visto voi di 70 euro costa. Minimo 70, se non di più pure. Immagini zen, io la Fugiano ho pagato 59 euro l'MB più 5 e l'MB più 4 49 euro, se no quando vuoi andiamo assieme e te lo faccio io da Antonello. Quando non vai Antonello Marti avanti, io ci mi rimbiati, 70 euro io non le avrei comprato quel microfono, Riccardo, non gliel'avrei comprato, capito? Perché per 50 euro ti avrei fatto avere un Turner più 3 nuovo da applicare a quella radio che c'hai, meglio dell'MB più 5. Cosa fai se c'è lo scontrino, Riccardo? Domani vai e lo riporti, fatti restituire i soldi. E con 70 euro te lo ordini da internet, nuovo, senza che nessuno abbia saldato niente, e te lo compri nuovo. Ma però te lo farai nuovo da lui. È stato un break comunque, facciamolo entrare, avanti il break. Ehi, ok, ciao Claudio, volevo farti sentire se ascoltavi a Riccardino, che adesso c'ha un microfono nuovo. Maniera di propagazione. Addio, non te ne abbia Riccardo, ci ha messo 1.5 le balle in FM, ma dimmi tu, non ha neanche lo grandaghi. Anche a me ha coperto Riccardo, questo in FM arriva un bel forte. Ricca, dille a tuo padre la mattina di quel microfono di mettersi le macchine e andare da Fusaro, glielo restituisci, le dici che non va bene e ti fai restituire i soldi. Il microfono usato dagli altri, 70 euro, animale. No, non ce l'ho io, ce l'ha un altro, un amico, capito? Ce l'ha un amico, se non l'ha dato, se non l'ha dato, prova a sentirlo, adesso lo sento, se non l'ha dato te lo faccio prendere, se l'ha dato pazienza Ricca, però 70 euro, cioè non va bene, perché ti ripeto, io l'ho pagato nuovo, 59 euro da Fusaro, l'MB più 5, 49 euro l'MB più 4, è il prezzo che fa sia a me che a Antonello Alessio, Antonello Pomponio, capì? 70 euro è un furto, perché quel microfono 70 euro non se li vale. Claudio, ti ho mandato una foto. E io. Ma quanto tempo fa l'hai preso, Claudio? L'anno scorso. Sì, però anche se non l'ha preso, allora, già, tu l'avresti preso con questo fatto che già lo Spinoza è stato saldato da qualche uno e c'ha questa bolla rialzata, io non l'avrei comprato per esempio. Scusa, se sto comprando una cosa nuova, la prendo nuova, per essere nuova, ve la so gubagendi, quindi lo voglio nuovo il microfono, non lo voglio usato dagli altri. Allora lui mi poteva dire, se io ho questo microfono, c'ha questo problema qua, l'hanno usato, hanno provato a fare queste cose, te lo posso dare la metà, e allora decidi se prenderlo o meno. Ma se tu, lui te l'ha venduto come nuovo, però era già usato, io gliel'avrei restituito, la verità. No, su quel fatto lì sono d'accordo, perché anche a Franco California l'ha venduto l'antenna che non funzionava, capito? Era partita l'antenna, ci aveva qualche cosa, qualche filo staccato, non andava a frutto, niente, nulla. Massimiliano, mi ha mandato la foto Roberto, quello non è un microfono che uno ci ha messo, si è messo a attaccare il connettore, quello è un microfono usato che gli hanno restituito, perché c'ha tutto il grigio, la scritta grigia che è tutta bombata. Ma c'è una cosa da fare, c'è una roba da matti, guarda, una roba da matti. Ci sarebbe da andare lì e dirle a Mattia, è venuto mio nipote a comprare un microfono e gli hai dato un microfono di merda, usato a 70 euro, ti devi vergognare. Costava 70 euro, gli ha fatto 8 euro di sconto, assurdo, cioè a metà lo paghi, me l'hai visto, ma si vedeva a fondo. Sì, l'ho vista, ma io sinceramente, vabbè, magari non lo so se l'ha accompagnato il padre, ma credo di sì, ma comunque io uno scempio del genere non l'avrei voluto, cioè me lo dai 30 euro, 40 euro ci sto, ma questo è uno schifo anche da vedere così il microfono, no, assolutamente. Ricca, tanto hai lo scontrino, domani mattina dire a tuo padre di andare e farsi tirare i soldi, le restituisci il microfono e le dici che non va bene sulla tua radio. Aspetta un attimino, scusa, Riccardo, una cosa. Ma te, te l'ha aperto dalla scatola, te l'ha tolto dalla scatola o te l'hai tirato con la scatola chiusa? Euro. Ma quello Massimo Ricca, mi dispiace dirlo, vai da tuo padre e dilli che sei nipote di Claudio o nipote mio, quello che vuoi, da Tonella o Marzia, non c'è problema, dilli qua, mi dispiace, non va bene questa radio, poi ho visto questo difetto e non va bene, trovo una scusa, o ti fai fare un buono per altre cose, perché sinceramente anche se va benissimo, stai uscendo bene, niente da dirlo, però non si può pagare una cosa a prezzo di mercato, perché 70 euro è il prezzo di mercato, con tutti quei difetti, assolutamente non esiste. Ok Claudio, una cosa a te adesso. Dimmi. Tu c'hai del G, come si chiama? C'hai del CIC, quello della Turner? Sì, Eric, sì. Ce l'hai, non lo schema, se per dire me lo dai, siccome io ho quello di Riccardo qua, questo side Eric, il microfono, quello è diverso dal Turner più 3 piccolo che ho io. Per aprire, siccome ne hanno tagliato i fili, le connessioni, per vedere i colori così di saldo nello stesso modo del tuo. Io c'ho lo schema c'ho, il microfono ce l'ho più. Ma ce l'hai in fotografia lo schema? Dove ce l'hai tu lo schema? No, c'ho lo schema proprio del Super Siderick, ho lo schema del Turner più 3 Super Siderick, proprio sono 3 o 4 fogli dove c'è tutto il circuito e tutto il collegamento da fare. E allora è tutto collegato, c'è tutto completo, però hanno eliminato l'amplificazione, hanno tagliato il cavetto della batteria e i cavi che vanno al coso, hanno lasciato solo il PTT senza niente. E ho guardato il mio TAN più 3, ma è completamente diverso da quello, sia il circuito che i cavi di connessione. Ok, vai Massimiliano e poi ti facciamo riprendere Eugenio che è in parcheggio. Avanti Eugenio. Sì, guarda, sono appena uscito dalla doccia. Stavo già fatto una cosa. È entrato Emiliano, così ho sentito. Emiliano, Emiliano, Emiliano è cosa, quello dei film di Trinità, Emiliano non parla. No, no, ho sbagliato, ho sentito male io, dai. Un attimo, riprendete che sono, mi sto sgocciolando, sono stesso la luce, un attimo. La rugginita c'è anche. Adesso ve lo lancio io. Hai capito Gianni qual è il problema? Cioè stiamo parlando di Claudio Massimiliano e Gianni, ma neanche Roberto l'avrebbe comprato. Ma io non li voglio manco c'è graffiato. Ma manco c'è graffiato. C'è una cosa mia che c'è un graffiettino, me la tengo per me, perché purtroppo è usurato è già successo, no? Ok, è una cosa vecchia, non è che, però graffi no, è proprio usurato, si vede che è vecchio e me lo tengo per me, ma se lo devo dare, io devo dare una cosa nuova, una cosa che anche se la do a seconda mano, usata, te la do nuova, non te la posso dare tutta gaggata, tutta vecchia, perché non esiste, non è una cosa che a me mi fa bene, se vendo. Immaginati se compro una cosa nuova che me la dai vecchia, ma ti la mangi, ma te ne dire a gonto. Avanti Claudio. Sì, sì. L'FL50.000 la sommerca, quello funziona bene. Un ottimo ricevettore decametri come un ottimo ricevettore, non bellissima ricezione. Capito Massimiliano? Cioè, hai visto, no? Già mai capito? Cioè, non va bene anche per questione di correttezza. No, anche per questione di correttezza. Ma che te l'ha dato chi su? Claudio, che schifo, che brutto. Immagini già detto, me l'ho comprato nuovo, ma chi so è usato, cosa nuovo? Quello è usato, non è nuovo Massimiliano. Ecco, della porta indietro l'antenna ci ha fatto tornare su. Claudio, io la verità si dica, io una cosa così non l'avrei acquistata per quella cifra. Se lei mi avrebbe detto, guarda, questo microfono c'ha questo problema, ok? Per questo problema io te lo posso dare tot. Allora tu decidi se prenderlo o meno, però sai già che stai prendendo una cosa che è già usata. Ma poi ha detto anche che è stato saldato lo spinotto, quindi ma di cosa si muovava il denne? Cioè ha fatto un bagaglio 70 euro, un MB più 5 trattato chissà da gà. No, io Riccardi, mi dispiace dirtelo, uso un altro pochino il microfono normale, però fate restituire i soldi, e se non ti restituisce i soldi con quelli stessi fai fare un volo, ti prendi un alimentatore, ti prendi qualsiasi cosa, ti prendi un po' di cavo che può sempre servire, dei PL, ma io quel microfono gliel'avrei restituito, ma manco un derra mi ha toccato. No, non se lo fa cambiare, se ne fa dare un altro uguale. Sì, ma mi sa che non è apero. Vecchi. Avanti. Scusate, ciao a tutti. Com'è la radio? Avanti, Tony. Ehi, guarda, prova la radio. 1, 2, 3, prova. Forse c'è un innesco. Fa un altro passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, sì, avanti. La radio è chiara, però c'è una specie di innesco ogni tanto. Perché devo abbassare il ranking. Adesso va bene? Così l'ha fatta anche adesso. Però è un passaggio più lungo, un po'. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. 1, 2, 3. Ogni tanto lo fa, dai. Non è... Che microfono è questo? Turner. Non sta amplificando bene, è un po' cupa l'assento come modulazione nasina. Devo regolare per il mic gay, dai. Sì, ciao Tony, dimmi Rick. Ma comunque, ciao Riccardi, è ben detto gliel'hai tuo padre? Ho capito, cosa? A tuo padre gliel'hai detto ieri? No, non l'ho dimenticato, è uscito lo stesso. disabilità, c'è fretta. Claudio. Oh, fammi cercare il coso, ho l'MC60, il manuale del 60, con tutto lo schema. Aspetta, fammi cercare, dimmi. Quello dico, se riesci a trovarmi lo schema domani mi faccio la foto, ma mi faccio la fotocopia e te lo restituisco. Eia. Claudio, se ti serve ciò, il manuale, nel manuale proprio originale suo, con lo schema originale del 48 che ti ho dato, per dirti, per farti capire che io c'ho tutto. Beh, la radio è completa, mai vista. Avevo anche la scatola, non so se ce l'ho buttata, vabbè, comunque. È nuovo nuova quella radio, quindi c'ho il manuale suo, il resto ho trovato tutto, staffa, cavo, tutto, capito? Però siccome c'è lo schema nel manuale, l'ultima pagina c'è proprio schema, diagramma, vedi? E c'è tutto, è molto importante per fare dei lavori, per delle cose, adesso me lo fotocopio e me lo tengo. E poi alla prima occasione te lo passo, Sto cercando questa cosa, Roberto, riprendete voi, dai. Sì, tutto a posto. Gli ho dato una passata di spray per contatti, adesso non gracchia più, perfetto. E in più le ho messo la terza luce sull'orologio, nella stessa posizione in cui andava, dai. Perché c'è lo spazio per mettere la luce anche l'orologio, quindi adesso si illumina anche l'orologio. Ok, bianco per me, riprendo subito, vai un attimo. Vai Massimiliano. Sì, io sono qua. No, stavo ancora continuando a guardare questa bozza che c'ha, questo rialzo, che è spaventoso. Va bene, va. Io non lo so, cos'è quel partner che c'hai tu, il più 3B? Il mio è più 3B, però è diverso da quello di Coso, che è quello sai, che è quello cromato, quello di Riccardino, è completamente diverso, proprio da un altro circuito, eccetera, eccetera, proprio un'altra cosa. Una domanda, secondo me quel microfono di Riccardino c'ha anche problemi, non vorrei che sia stato manomesso, perché quando abbiamo fatto le regolazioni, per uscire dovevo metterlo a zero, come sollevarvi lo zero, iniziava a innescare a fare rumori strani, proprio una cagata i tuni. Quello l'hanno messo vicino a qualche fonte di calore, magari sotto qualche lampada, cosa del genere, ha dilattato il coso, l'adesivo che c'è sotto, c'è gonfiato l'alluminio. Sai cosa fai Riccardi? Se non ti dai su che c'ha difficoltà, ti fai fare un muro, oppure cioè, facciamo una cosa, ordinatemelo, quando arriva mi chiamate, non succede niente, lui è un commerciante, c'è il diritto di recesso, uno se non gli piace la roba, ci dice guarda mi dispiace, a parte che l'ho guardato bene, li trovi tutti i difetti, dice no per fare il pignolo, però io l'ho pagato come nuovo, però questo non è nuovo, se mi fai uno sconto per dirlo posso pagare 40 euro proprio per dargli coso, respiro, se no con la roba lì non si paga più di metà prezzo. Ce l'ha, l'ho chiamato, non ce l'ha più, ce l'ha venduto per Carlì. Però te ne fai dare un altro, se non ne ha, te lo fai ordinare, ok? Te lo fai ordinare nuovo, non quello lì, tu le dici che quello non lo vuoi, capito? Oppure se ha l'MB più 4, intanto a te i toni non ti servono, se ha l'MB più 4 ti fai dare l'MB più 4. Perché quella è una presa in giro, capito? Vabbè, l'ho trovato lo schema del Turner, ok? Vediamo se ci sono tutte e tre le pagine, sì, ci sono tutte e tre le pagine, c'è lo schema completo, va bene, domani mattina te te lo passo, ti mando ancora X un attimino che mi devo preparare per uscire. Ok, Riccardo, scusate un attimo, se riprendo io. Riccardo, non c'è bisogno di dire che sei amico di nessuno, è un tuo diritto e basta. Ma se lo dovevi comprare, potevi dire amico di Claudio, mio nipote o amico nipote di Claudio, però ormai no, il danno è fatto, devi andare soltanto, si guarda, non sono soddisfatto di questo microfono, o mi restituisci i soldi oppure me lo ordini. E poi se ti devo aggiungere qualcosa, magari visto che mi hai fatto lo sconto, ho visto nel catalogo, nella scatola c'è scritto 78 euro, nell'immagine che mi hai mandato, e ci sono disposto anche a darti gli 8 euro in più, però mi devi dare un microfono pulito, ordinato e perfetto, che sia il primo a utilizzare, non una cosa vecchia e modificata. Ti fai una ricetta che lo riesci a questa sale. Se c'ha l'MB più 4 ti prendi l'MB più 4, costa di meno, al limite ti restituisce qualche spiccio. Va bene, poi nel frattempo, se per dire ti trovi senza microfono, io già ne ho di microfoni, c'ho un MB più 4 nuovo fiammante, poi c'ho l'MB più 5, diciamo già innestati per quella radio lì, ti presto l'MB più 4, poi quando ti arriva me lo restituisci. Non ti lasciamo senza microfono, non ti preoccupare, tra amici si fanno queste cose, a me l'hanno fatto tanti, Claudio mi ha dato tante volte una mano, qualche altro mi ha aiutato in altre cose, dai, bisogna cercare di aiutarsi uno con l'altro, quando ci sono i problemi e c'è la possibilità di farle, le cose si fanno. A me mi era capitato un attimino che c'era una volta un problema di antenna, mi aveva dato l'accordatore, proprio Claudio, poi un'altra volta non avevo la radio, c'avevo il baracchino piccolino, mi ha prestato l'Innoiti, il famoso Innoiti che c'aveva lui, ma diciamo ci aiutiamo fra di noi, dai. Poi nel mio lavoro quando posso fare qualcosa cerco di dare un aiuto un po' a tutti, naturalmente nel limite del possibile. Ok, avanti Eugenio, se c'è ancora. Sì, io ci sono, vi sto ascoltando. Ho detto magari c'era solamente un microfono lasciato lì in vetrina, preso sole, no? Non è possibile. Comunque se ce l'ho anch'io un palmare amplificato, il Proxer, le ho preso se proprio non vuole un microfono amplificato. Lo vedi Riccardo, ci sono tanti amici generosi e disponibili, dai, non c'è problema, tu tuo padre visto che abita vicino, se per caso te lo cambia non ha niente, te lo presto io finché non arriva il nuovo il TAN, adesso domani Claudio mi porta lo schema, vediamo se ne cambiamo piedi, così c'è anche un bel microfono, il TAN non ha uguali su questo tipo di radio. Specie è quello. Cos'è già? Ho detto specie Siri che è migliore anche delle TAN normali. Però lo sai, l'aspetto, il circuito è completamente diverso già, c'ha anche una regolazione di amplificazione, c'ha un trimmer di regolazione, però c'ha un difetto rispetto al più 3, un difetto nel senso una cosa in meno, il PTT del coso, del TAN più 3, è a 3 lamelle, quello invece ne ha 2, è identico, tutto uguale, gli appoggi della scheda, tutte le cose, il volume, il potenziale, lo scatto del tenere il look bloccato, però il PTT del TAN più 3B è a 3 lamelle, mentre quell'altro ne ha 2. Ehi, guarda, io una volta sono andato a casa di Walter, stavo andando in macchina e lui stava parlando con Super Sideri, che non sapevo nulla, e pensavo che fosse con una radio amatoriale di quelle grosse, e invece stava usando Super Sideri col DAC. Ma tu devi sentire che radio mi ha detto, bella calda, bella forte, potente. Ma io l'ho detto, il DAC secondo me di tutti i baracchini che ascoltate in frequenza è il numero uno, vabbè, valvolare, la voce umana viene riprodotta con più naturalezza, e io l'ho ascoltato proprio al Walter, l'ho ascoltato anni fa, sia col Tanner e con lo Shure, però devo dire che lo Shure sul DAC si adattava meglio, anche se il topo, anche il Tanner non c'ho niente da dire, sono tutti e due radio speciali, però con la voce di Walter mi piaceva di più lo Shure, non so per quale motivo, forse le sue corde vocali erano un po' più pronunciate e più adatte per quel tipo di modulazione. Ok, facciamo riprendere Amuros e poi riprenderà Massimiliano, non so se ci sia qualche durato, c'era anche Luca, vabbè, facciamo girare anche a Luca che è in parcheggio. Avanti Claudio e poi Massimiliano. spiego io o spieghi tu, Massimiliano? Massimiliano, vabbè, intervengo io, dai. Allora, lui ha acquistato stamattina o stasera, non lo so, un microfono, un MB+5, quello della ZG con i controlli di tono. A parte che ho dei dubbi che quei controlli di tono non siano stati manomessi, perché non mi piace come regola, no? Dopodiché, questo mic lui l'ha già trovato, già saldati, le connessioni che sono state già manomesse. Dopodiché, la lamella è in alluminio, la copertura è in alluminio, quella dove c'è scritto ZG serigrafato, diciamo, è tutto pieno di bolle, ma bolle abbastanza evidenti, e sembra un microfono vecchio. Assolutamente, o se non dici guarda, io te lo pago a metà prezzo anziché 70, ti do 35, 40 euro dai, per volerla bene, dai. Tanto loro non ce li hanno rimessi, non gli è costato 40 euro quel microfono, secondo me gli è costato molto, ma molto di meno. Tu stai prendendo un oggetto che non è conforme a quello che deve essere, per cui c'è il diritto di recesso, tranquillamente, senza bisticciare, lì si dice, o se non si trova la soluzione, ordina meno un altro nuovo, sono disposto a pagartelo anziché 70, 78 quanto è indicato nella scatola, ma se non mi fai un buono per restituirmi i soldi, oppure mi do redina, come si dice a Sassari. Ok, avanti, doppio room, e poi fa la girata. Ehi, ma quanto ho capito io, Robe, loro gli hanno fatto lo sconto per questo motivo, perché forse era un microfono che a loro gli ha avanzato solo perché aveva quei difetti. Non l'ha preso nessuno, normalmente noi siamo pignoli, queste cose non le tocchiamo, se c'hanno graffi o roba del genere, io perlomeno sono il primo, come Claudio, se c'ha un graffio glielo lascio, non me ne ha fatti nulla, lo sto pagando per roba e roba lo voglio. E adesso bisogna vedere come la gira, dice, ma io te l'ho dato di meno, lo sapevi che cosa c'aveva, te l'ho dato di meno per quello, capito? Gianni, allora nella scatola c'è prezzato 78 euro, gli ha fatto 8 euro di sconto, un microfono, già le saldature non sono originali, prima cosa, che potrebbe essere, diciamo, meno importante, ma tu non puoi prendere, cioè presente il microfono, c'è col foglio di alluminio, con delle bolle quanto un dito, quanto un'unghia di un dito, uno da una parte e uno dall'altra, tu te lo compri un microfono tutto bombardato, sembra bruciato, quando una cosa la bruci che si gonfia, una buscica. Sarà incinto. Adesso fai gli altri microfonini. Quelle microfoni hanno lasciato in vetrina al sole e si è cotto al sole, ma non è roba usata. E oggi, adesso mi ha mandato la foto del connettore, tu devi vedere le saldature senza nessun isolamento, perché c'hanno quei tubicini in PVC per isolarlo, queste sono saldature fatte da qualche porcaccione. Sarà come lineare che mi hanno venduto bianco per entrare, bianco. Chissà che altro tempo vira via, sono andato a provare e non funzionava. E le ho riportate indietro. E lui dice, io guarda, non avrei rotto tu, questo e quell'altro, sempre trova sempre scusa. Avanti Giulio. Bianco. Madonna di Gisio. Un quarto d'ora cercando di entrare. Se andate. Spidi Gonzalo tutti quanti, avete il dito facilissimo, che ammolla proprio. Pensa che la lancetta dello smitter qua non fa in tempo ad arrivare a zero, che già state parlando, una cosa incredibile. Vabbè, dai, comunque, va bene lo stesso. Ciao a tutti, Roberto, Gianni, Eugenio, Riccardino e quanti altri ce ne sono, non lo so. Riprendi pure Riccardino, facciamo girare questa ragazza, solo lui ce lo può dire come mai ha preso quel microfono, state facendo una discussione e va bene, d'accordo. Perché non chiedete a lui come mai ha preso questo microfono? Nessuno gli ha fatto questa domanda, ma anche Riccardino. Uno schifo, saldatura neanche, scusa Giù, ben sentito, ciao, non ti ho sentito, sono già lo sai, non esistono i problemi. Le saldature, se volete le saldature, mi ho mandato una foto a Massimiliano, guarda, io dico il peggior porcaccione che si mette a saldare, saldature fredde, con la calza tutta schiacciata e aperta, senza essere neanche proprio incollata, uno schifo. Va bene, d'accordo, ma dimmi una cosa, Riccardino, sei andato da solo a comprare oppure con tuo padre? E allora basta, ha detto tutto, no? Se il padre l'ha comprato vuol dire che gli andava riaccettato così, è inutile il padre stare lì a fare delle discussioni, a demoralizzare questo ragazzo adesso. Sta uscendo bene, ugualmente, pazienza, se gli ha fatto 8 euro di sconto, evidentemente gliel'ha fatto proprio perché ci sono queste bollicine come le chiamate voi, e se il padre l'ha accettato, basta, un uomo grande, non è, sarebbe stato diverso se fosse stato lui, solamente io Riccardo a comprare questo microfono, ma sei andato col padre, basta, è andato così, pazienza, no? Io non ne vedo la ragione perché si debba demoralizzare questo ragazzo mettendogli in testa tante grilli. Avanti Eugenio. È un'ora che lo sto dicendo che lo sto facendo a pezzi, ma a due volte, sta uscendo bene, va bene, poi non lo so, io non lo so. Intervengo un attimino, scusa Giulio. Allora, nessuno sta facendo la pizza a nessuno, forse non avete sentito tutto il discorso dall'inizio. Stiamo dicendo, quando si compra una cosa, lui è talmente preso da questa cosa, probabilmente non l'ha verificato bene. Io gli ho detto, ti do io il microfono mio, però fatti restituire il soldi o se no ti fai dare un microfono. Lui sta uscendo alla grande, bellissimo, ci siamo sentiti spostati su un altro canale, abbiamo fatto tutte le prove. Nessuno lo sta mortificando, anzi è stato lui a mandarmi, io nemmeno ne sapevo di questo fatto, mi ha mandato Riccardo la fotografia con questi difetti dicendomi se si poteva fare qualcosa. Io ho detto non c'è niente da fare, purtroppo ci mancherebbe che io mortifico a Riccardo, soprattutto a lui, un ragazzo giovane che è appena entrato in frequenza, assolutamente forse c'è un'incompressione. Stiamo cercando di fargli recuperare un microfono buono oppure i soldi oppure non lo so, di ordinarne un altro, però nel frattempo quando rimarrà senza microfono, ho detto io non ne ho uno, te lo do io, te lo usi e poi ne parliamo. Posso? Riccardo, riprende Claudio un minuto. Allora, siccome sono io che gli ho detto a Riccardo ieri comprati un microfono da tavolo, vai da Fusaro e ti compri un MB+5, ok? Adesso io voglio fare una domanda prima a te, Eugenio, che tu sei quello più pignolo cazzo di Dante Alighieri. Secondo te, io ti mando una foto, tu vai a comprare una cosa nuova, nessuno sta discriminando a Riccardo perché sta uscendo benissimo, ma tu pignolo come sei, no? Vai a comprare una cosa nuova e te la danno schiacciata, è schiacciato quel microfono, hai capito che è schiacciato? La parte di sopra dove c'è la scritta, tutta quella scritta in alluminio, è tutta sollevata, ok? Il microfono è usato, tu l'avresti comprato nuovo dentro la scatola in un negozio per 70 euro, tu l'avresti comprato, di quello stiamo parlando, mica l'ha fregato, non stiamo discriminando a Riccardino, perché gli ho detto io di andare a comprarsi un microfono a Fusaro, ok? Tu l'avresti comprato, domanda. Risposta. Io quando compro una cosa la guardo, se mi va bene la compro, se mi va bene la compro, tutto e basta. Vabbè, lui l'ha guardata, non lo so, nessuno sta dicendo niente, però stiamo parlando del discorso che un professionista come Fusaro non può vendere una cosa nuova a 70 euro, ok, io l'ho già pagato 59 l'anno scorso, non ho capito perché costa 70 adesso, l'MB+4 49, io ce li ho tutti e due nuovi, comprati l'anno scorso, 59 e 49, va bene. Un professionista come Fusaro si deve vergognare di vendere una cosa a quel prezzo, nuova, tutta quanta sporcata dagli altri, perché quel microfono è usato, perché è stato già saldato, magari l'hanno anche toccato dentro, toccato perché sta uscendo benissimo, ma potrebbe uscire ancora più forte, infatti gli ho detto portalo da Roberto che voglio controllarlo se è uguale al mio. Di quello stiamo parlando, non si sta discriminando nessuno. Io sono stato a dirle di andare a comprarsi il microfono e io sono intervenuto perché quel microfono non è da vendere nuovo, quel microfono è da vendere a metà prezzo, di questo si sta parlando. Ok, vabbè, d'accordo, vabbè, sto zitto. No, oggi la parola ce l'abbiamo tutti e tutti dobbiamo ribadire ciò che pensiamo, però io come CB da tantissimi anni mi vergognerei di avere un negozio a livello, perché sono dei grandissimi professionisti, Fusaro non è un negozietto da niente, ok? Si deve vergognare di aver fatto un'azione del genere a un ragazzino, ma non penso che era da solo Riccardino, era sicuramente con Sergio, ok? Non doveva accettare di comprare un microfono nuovo, 8 euro di sconto, stai facendo l'elemosina, perché quel microfono, se vedete le foto, fa veramente piangere. Io ce l'ho 2 anni, il 4 e il 5, non c'hanno un graffio, sono nuovi, sono meglio i miei di 2 anni fa che quello comprato nuovo stamattina, ma cioè vi rendete conto? Ok, ma sappiamo tutti che alle prime armi tutti l'abbiamo fatti gli errori, no? Alle prime armi presi dalla foga di aprire il microfono, magari ho pensato che la placca non me ne frega niente, capito? Tutto lì. Ognuno la pensa come vuole, ma noi stiamo parlando di questo, non del Riccardo che ha comprato il microfono o che ha sbagliato a comprarlo, per carità, assolutamente no, c'era quello e quello ha preso, è chi gliel'ha venduto, chi gliel'ha dato come commerciante che si deve vergognare, capito Giulio? Sì, ho capito benissimo, però il discorso è questo, Riccardo è andato con un uomo grande, si è col padre, se il padre l'ha accettato, evidentemente cosa ne sappiamo noi, se questo sconto che gliel'ha fatto proprio perché c'è questa bolla su questa targhetta eccetera eccetera, queste cose noi non le possiamo sapere, solo il padre ce lo potrebbe spiegare, ma non tanto Riccardo, il padre ce lo potrebbe spiegare, che poi tutto sommato ci può anche dire, ma a voi che cosa me ne frega come ho comprato un microfono, l'ho comprato perché vuol dire mi andava di comprarlo, basta, tutto lì, non è inutile stare, però quello che conta è che esce molto bene, io lo sento molto bene, per cui va benissimo così. Poi ripeto, che il fatto che sia un commerciante un pochino disonesto, questo non ci piove, questo è scontatissimo, perché io non l'avrei venduto, io commerciante non l'avrei venduto un microfono così. Evidentemente qualcuno l'ha restituito di seconda mano e lui se l'ha venduto alla grande come nuovo, anzi più di quanto costa nuovo veramente, perché so che costa intorno ai 65 euro un microfono, ma nuovo di zecca, di pacca proprio, non con la bolla così. Questi 8 euro che gli ha scontato evidentemente a padre gli ha fatto comodo, l'ho comprato e basta, ce l'ha questo ragazzo, tutto lì, niente di particolare. Avanti Gianni. Sì, vabbè, dai, possiamo fare tutta la sera a parlarne, in ogni caso non ha fregato solo a lui, anche Franco California ha comprato l'antenna, l'altra volta gliel'ha data 30 euro, questa antenna va a piazzare e non funzionava niente, gliel'ha riportata e gli ha tornati su. Gianni, noi siamo una vita che abbiamo criticato sempre col negozio che c'è a Serra Secca, no? Che vende in una maniera a di poco sporca, nel senso che tutto quanto sarà andato, che è tutto disordinato, non ce ne frega niente tutto sommato, noi quando andiamo a comprare guardiamo il materiale che compriamo, se ci conviene lo compriamo, se poi non ci conviene non lo compriamo, nessuno ci obbliga, poi che cosa ne sappiamo noi dei fatti degli altri, non ne possiamo sapere niente, assolutamente niente. Se il padre l'ha comprato, non è un bambino il padre, è un uomo grande, se l'ha comprato vuol dire che gli interessava comprarlo, cosa ne sappiamo noi di tutti i particolari, niente, non ne sappiamo niente. Roberto. Dico solo un'ultima cosa, così chiudiamo il discorso del microfono, sennò stiamo tutta la sera parlando. Nessuno ne sapeva di questo difetto e tutti l'hanno si sono tutti complimentati, se sentivi il discorso di prima, anzi qualcuno ci è rimasto male, ho detto possibile che nessuno ha fatto i complimenti a Riccardino, e poi alla fine li avevano fatti tutti, perché soprattutto ci teneva tantissimo Riccardo, perché c'era una bellissima radio, io non sapevo che si era già fatto sentire dagli altri, gli ho detto fate i complimenti a Riccardino e gli avevano già fatto, infatti ho fatto una mezza brutta figura io. Poi Riccardino mi ha mandato questa foto, mi ha detto Robe, si può fare qualcosa per il, questo biglietto, purtroppo non c'è niente da fare. Di lì, e poi di lì è successo tutto quanto. L'unica cosa adesso voglio dire a Riccardino, se questa discussione che abbiamo fatto in suo favore, non lo stiamo facendo per criticare assolutamente, se gli ha creato disagio. Se ti ha creato disagio, da parte mia mi scuso, sono il primo a scusarmi. Avanti Riccardo.